24 mattino. Buona giornata, 24 mattino speciale, quella di questa edizione invernale. Irene Zerbini vi saluta. Innanzitutto ci siamo sentiti quest'estate con Spunti di Vista, ritorniamo insieme in queste vacanze natalizie e riprenderemo alle 8:15 per parlare di lavoro, le novità del 2015, il Jobs Act. Racconteremo poi una storia tutta italiana, l'Italia della molta burocrazia, della poca meritocrazia. Il nostro ospite sarà Giuseppe Nardi. Chi è Giuseppe Nardi? È un dottore che per 15 anni ha fatto il primario facente funzioni al San Camillo di Roma, dove ha guidato il Trauma Center. Quando è arrivato nel 99, pensate, doveva gestire questo delicato reparto dei ricoveri a codice rosso, quelli estremi, per capirci. C'era il 42% dei pazienti che moriva su 100 che entravano, e con lui l'indice di mortalità è sceso al 16%, però è tecnicamente precario, e quindi Giuseppe Nardi finisce tra le forbici della Spending Review, viene rimosso e mandato a fare le guardie come ai tempi del post laurea. Ma vi racconteremo la sua storia a 24 mattino dalle 8:30. Ora saluto Giulia Crivelli in studio con me. Buongiorno Giulia. Buongiorno Irene, ben ritrovata. E Giulia Crivelli naturalmente leggerà per noi i giornali, che sono pieni di cosa oggi? Beh, naturalmente le prime pagine un po' monopolizzate da quello che è successo ieri in mare, con titoli che contengono tutti o la parola terrore o la parola inferno, ma la cronaca qui forse è meglio seguirla anche ascoltando i GR della radio. Poi naturalmente c'è il Jobs Act, di cui parlerai anche tu, e tante previsioni sul 2015 e bilanci del 2014. Ti seguiamo dunque in questa tua traversata sulle testate italiane. A dopo Giulia. A dopo. E dicevamo appunto le prime pagine dei giornali, cominciamo come sempre dal Corriere della Sera, e qui è un po', sapete, questa è un po' una mia fissazione, cercare di capire l'equilibrio che un giornale di carta, che arriva molte ore dopo che un avvenimento si è verificato, come tratta un avvenimento di cronaca che in realtà evolve e che nel momento in cui si va in stampa probabilmente è già evoluto. E quindi il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, tutti i quotidiani hanno cercato di approfondire in qualche modo, oltre che fare un po' di cronaca. Però, come dicevo a Irene, poi seguendo i GR di Radio 24, il sito di Radio 24, altri siti di notizie, in realtà le notizie poi appunto verranno più saranno più aggiornate di quello che possono fare i giornali, che sono andati in stampa 10 ore fa circa, più o meno. Ma cominciamo quindi dal Corriere della Sera, che titola "Terrore in mare, salvateci". Il reportage di Virginia Piccolillo, ci sono da pagina 2 a pagina 9 c'è il racconto appunto di questa terribile esperienza che hanno avuto i 478 passeggeri del traghetto italiano che dalla Grecia appunto riportava le persone in Italia. Vi segnalo l'editoriale di Aldo Cazzullo, che ho trovato per certi versi un po' strano, però comunque offre uno spunto di riflessione. Ve ne leggo una parte. "Stavolta non sono figli di migranti i bambini che vediamo trarre in salvo dalla marina italiana", e aggiungo io, perché alcuni dei fotogrammi sicuramente più impressionanti di quelli che siamo riusciti a vedere, perché poi sapete che tutti i soccorsi sono stati avvolti dal buio, dalla nebbia e soprattutto dal fumo, sono state le immagini dei bambini tratti in salvo, perché c'è la vecchia regola, sana regola potremmo dire, che quando c'è un naufragio prima le donne e i bambini, e quindi le immagini, ripeto, poi è arrivato il buio, le prime immagini che sono arrivate sono state proprio quelle del salvataggio dei bambini. E allora scrive Cazzullo: "Non sono le immagini cui ci siamo pigramente e colpevolmente abituati, è un dramma che ci tocca nel vivo, che ci ispira nello stesso tempo paura, indignazione e speranza". E non so voi, ma io trovo così un po' strano dire che solo perché sono italiani ci tocca nel vivo, mentre se vediamo dei migranti, dei bambini migranti appunto nelle stesse condizioni, non ci tocca altrettanto nel vivo. C'è qualche cosa che non mi torna, però comunque trovo appunto uno spunto interessante questo di farci riflettere in generale sui naufragi, partendo da questo che si spera, tranne la persona che il passeggero greco che è morto cadendo in acqua perché cercava di raggiungere una scialuppa e poi è morto per ipotermia, tranne appunto questo passeggero, Con ogni probabilità le altre 477 persone a bordo si salveranno. Ma veniamo alla prima pagina della Repubblica, qui il titolo è proprio a tutta pagina, prigionieri del traghetto in fiamme, la foto è stata scattata quando appunto c'era ancora la luce sul ponte, sulla prua della nave, con le persone che indossavano tutti i giubbotti di salvataggio. C'è anche un collegamento a un altro avvenimento tragico di ieri. Ieri è stata veramente una giornata per la cronaca, per gli incidenti aerei e di mare terribile. C'è un nuovo mistero in Malesia, perché scomparso un altro aereo dopo quello che era già scomparso mesi fa, questa volta i dispersi sono 162. E poi vi segnalo, ne leggeremo una parte dopo, un articolo di Livo Diamanti che come sempre prende spunto da un sondaggio, da un'indagine, in questo caso un'indagine condotta da Demos per Repubblica: la solitudine del cittadino si fida solo di Papa Francesco. Vi leggo la prima parte di questo editoriale che poi continua a pagina 10 e 11 di Livo Diamanti. Un paese spaesato, senza riferimento, frustrato dai problemi economici, dall'inefficienza e dalla corruzione politica, affaticato e senza troppe illusioni nel futuro. È l'Italia disegnata dalla 17ª indagine sugli italiani e lo Stato condotta da Demos per Repubblica. Pare una replica del rapporto 2013, se possibile peggiorata. Tuttavia c'è una novità, il senso di solitudine, perché oggi molto più che nel passato, anche recente, i cittadini si sentono soli. E poi la prima pagina della Stampa, titolo praticamente uguale, anzi preciso identico a quello della Repubblica: prigionieri del traghetto in fiamme. E poi un accenno subito, l'avete sentito e sicuramente se ne parlerà molto, al fatto che 10 giorni fa questa nave non aveva superato tutti i controlli di sicurezza, e l'incendio, lo ricorda il sommario della Stampa, è iniziato nel garage dei TIR. E poi anche qui c'è l'accenno all'altro disastro di ieri in mare, che è quello di molto vicino al porto di Ravenna, dove la visibilità era praticamente zero per via della nebbia. C'è stata una collisione tra due mercantili e ci sono due vittime. La prima pagina del Sole 24 Ore non parla del disastro del traghetto, ma perché lo ricordo, perché insomma dandogli così una prima occhiata uno forse non se ne rende neanche conto, però siccome io lavoro qui invece lo so. Il Sole 24 Ore del lunedì è in realtà un'edizione di approfondimento che viene chiusa al venerdì sera, e quindi ovviamente non può contenere, a meno che non ci sia un'edizione straordinaria, le notizie del sabato e della domenica, le notizie di cronaca. In compenso però, da oggi, come avete sentito anche nei GR, inizia uno speciale sulla legge di stabilità, che viene proprio dissezionata, guardata al microscopio. Si inizia oggi con una parte legata alle aziende, quindi la grande novità dell'IRAP, ma anche altre come gli incentivi, e quindi una guida pratica per aziende e professionisti. Domani invece sapremo, sempre grazie a questo speciale del Sole 24 Ore dedicato alla legge di stabilità, cosa cambia per l'IVA e il contratto a tutele crescenti, e poi mercoledì il nuovo ravvedimento e i primi passi dell'ASPI, quindi tutte le novità fiscali. In ogni caso, il titolo principale del Sole 24 Ore di oggi: fisco, casa, lavoro e pensioni, ecco le 100 novità del 2015, perché questa è un altro degli approfondimenti in cui siamo specialisti. E appunto, se guardate da pagina 2 fino a pagina 7 del Sole 24 Ore, proprio da 1 a 100 ci sono i numeri, ci sono i titolini e tutte le novità di questo anno da, diciamo, staccare e conservare. La prima pagina del Messaggero: l'inferno dei naufraghi, e anche qui naturalmente molti commenti, molti approfondimenti per cercare di capire cosa sia davvero successo e se si poteva evitare questa tragedia, visto che la nave appunto non era una nave sicura, stando ai controlli che non aveva passato. E poi un accenno a quello che dicevamo, la collisione in mare tra due mercantili al largo di Ravenna. E poi un approfondimento che ho trovato solo sul Messaggero, a cui magari daremo più spazio nella seconda parte della rassegna, riguarda il catasto. Sapete che una delle grandi riforme è quella delle valutazioni catastali delle nostre case. Ecco come cambierà: aumenti e risparmi fino al 25%. È pronto l'iter per i nuovi estimi su 64 milioni di immobili. Il Giornale, l'approfondimento, il titolo principale è dedicato a quello che è l'approfondimento del lunedì del Giornale, che si chiama Controcorrente, lo vedremo dopo. La copertina di questo giornale dentro al giornale, è dedicato all'Europa, in particolare a quelle che il quotidiano diretto da Sallusti definisce le leggi anti-italiane dell'Europa. Prodotti senza certificati, frodi e dazi, la UE ci vuole morti e pretende altri 340 milioni. E poi un interessantissimo reportage di Angelo Allegri dalla Moldavia, così vivono i bambini lasciati in Moldavia dalle nostre badanti. Sono infatti oltre 200.000 le donne moldave in Italia che lavorano in Italia come badanti e spesso sono bambini piccoli che vengono lasciati a casa e accuditi dai nonni o dai vicini di casa, e il giornale li definisce orfani sociali. C'è poi un'intervista a Piero Stellino, che è un grande giornalista italiano, è stato anche direttore del Corriere della Sera, e ne leggeremo magari una parte dopo a pagina 16, ma vi segnalo il commento al Jobs Act, di cui parlerà anche Irene più tardi, come avete sentito nell'anticipazione, di Salvatore Tramontano. Ve lo leggo perché è uno dei più brevi che ho trovato e naturalmente riguarda in particolare quella parte sui licenziamenti agli statali. Renzi ha la paura di tirare il calcio di rigore. Alla fine del Jobs Act, Matteo Renzi non tira l'ultimo rigore. Si rifiuta, come un premier dalle spalle strette, che sulla questione decisiva degli statali si gira di spalle e torna negli spogliatoi. Parla Ichino, parla Poletti, parla Marianna Madia, parlano Sacconi e gli alfagnani imbronciati. Parla perfino un sottosegretario. Quando tocca al capo del governo, la risposta è pilatesca. Gli statali saranno licenziabili o no? E lui, sul quotidiano nazionale, sussurra: sarà il Parlamento a pronunciarsi su questo punto. Alla faccia del leader. Renzi va in tutta Europa a vantarsi della riforma del lavoro e poi non prende posizione sul punto più delicato. Ma la questione statali non è marginale, per almeno due motivi. La disparità di trattamento tra pubblico e privato crea problemi di eguaglianza davanti alla legge. La Spagna di Rajoy quel rigore lo ha tirato, dimostrando all'Europa che le riforme non sono solo chiacchiere. Qualcuno magari quella di Renzi la chiama furbizia. Matteo Svico per non perdere il consenso degli statali, quelli che ormai sono un po' la base elettorale del PD. Matteo ha un talento nell'annusare le questioni dalle quali è meglio stare alla larga. Matteo lancia il sasso delle riforme e poi, come sempre, nasconde la mano. Solo che ci sono momenti in cui non puoi non metterci la faccia, anche se non conviene, anche se rischi di buttarla fuori. Come cantava De Gregori, non è da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Bene, forse Matteo fantasia ne ha, ma sul coraggio e sull'altruismo deve ancora lavorarci parecchio. Aggiungiamo che oggi ci sarà una conferenza stampa del Premier e che comunque questa questione è aperta, quindi vedremo come si muoverà. Salvatore Tramontano ipotizza appunto una mancanza di coraggio, può darsi che invece Renzi ci sorprenda tutti con un annuncio che risolve questa questione che si è aperta. La prima pagina del Foglio Quotidiano, che sapete a lunedì è una raccolta degli articoli che secondo il Foglio, secondo il suo direttore Giuliano Ferrara, sono il meglio della stampa della settimana precedente, e oggi è un articolo apparso il 24 dicembre sul nostro giornale Il Sole 24 Ore, firmato dal direttore Roberto Napoletano. Dopo ne rileggeremo una parte. Si intitola Renzi, il muro tedesco e la sfida del 2015. È la lettera di fine anno di Napoletano sull'Italia alle prese con i propri errori, l'Europa politica bloccata e quella monetaria al bivio. Forza e coraggio. In primo piano. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Eravamo sul Foglio, che nella sua edizione del lunedì fa una selezione degli articoli apparsi la settimana precedente, e oggi ha deciso di scegliere come articolo di apertura la lettera di fine anno sull'Italia apparsa sul Sole 24 Ore di mercoledì scorso, la vigilia di Natale, scritta dal direttore Roberto Napoletano. Ve ne leggo un pezzettino, è molto lunga, inizia a pagina 1 del Foglio e continua alla pagina successiva. La doppia partita di Renzi e Draghi. Sarà il governo di Renzi all'altezza di una sfida che fa tremare vene e polsi? Ne ha la forza, il capitale umano e la statura internazionale? Ce la farà Mario Draghi a mettere in campo quella che è da sempre la migliore delle sue qualità, e cioè la capacità politica di fare al momento giusto la mossa giusta? Quanto peseranno i mille populismi che fanno credere agli italiani, ahimè con successo, che i loro risparmi e i loro posti di lavoro sarebbero più al sicuro fuori dall'euro, omettendo la banale considerazione che il debito pubblico italiano, attaccato a quell'europeo, fa paura e incute rispetto. Fuori sarebbe solo nostro, e quindi nessuno si preoccuperebbe di risparmiarci la stessa sorte di povertà che è toccata agli argentini con il loro default? O ancora, molto banalmente, che aziende come Enel, Telecom, impegnate nella realizzazione di un importante piano industriale, e molte altre altrettanto indebitate, uscendo dall'euro, salterebbero dalla sera alla mattina perché non sarebbero più in grado di rimborsare i debiti che resterebbero in euro ai detentori delle loro obbligazioni sottoposte al diritto inglese? Questi sono i fatti, richiedono un'analisi ragionata e articolata che vada in profondità. E poi prosegue, come vi dicevo, alla pagina, in realtà non a pagina 2 ma a pagina 3 del foglio, questa lunga lettera di Napoletano di fine anno. Rileggo l'ultima parte. Fino ad ora Draghi non ha mai sbagliato un colpo e, come abbiamo già detto, la sua grande capacità è quella di cogliere il momento politico giusto per fare e fare bene ciò che serve. Questa volta contro l'opinione pubblica tedesca, ha ragione, ma non gli viene data, e per di più sull'Italia incombe il giudizio di primavera della religiosissima commissione egemonizzata dai tedeschi. Al vertice franco-tedesco di Deauville si disse: ristrutturiamo il debito privato e salviamo la Grecia, ma non si faranno le stesse cose per i paesi con alto debito, e questo produsse quello che tutti ricordano a scapito di Spagna e Italia. Oggi non ci possiamo permettere di correre lo stesso rischio, perché i mercati ci farebbero tornare a ballare. Il Presidente del Consiglio italiano deve dimostrare di avere la forza personale e il seguito per spingere l'Europa a fare un progresso decisivo in chiave politica, e farebbe bene a dire le cose come stanno e a non privarsi dei contributi di esperienza che potrebbero rivelarsi preziosi. La partita non è facile, anzi difficilissima, ma dobbiamo vincerla. Sappiamo che l'Italia ha le risorse per farcela e ce lo auguriamo sinceramente. Ma vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, che anche in questo caso, come molti giornali del lunedì, è un'edizione un po' particolare. C'è la cronaca con un virgolettato, non so se ce la faremo, che è una delle frasi che i soccorritori sono riusciti a carpire all'inizio dalle persone che erano a bordo del traghetto. Di queste 478, 44 sono gli italiani. C'è appunto un po' di cronaca, anche se, come dicevo, poi gli aggiornamenti li avremo nelle prossime ore. E poi una lunghissimo elenco da pagina 6 a pagina 15 del Fatto Quotidiano dei promossi e bocciati, naturalmente secondo il giudizio del fatto, di questo anno. E la prima pagina della Gazzetta, ieri c'è stato un altro, adesso questi sono un po' i giorni del calciomercato, oltre che delle gare di sci, come vedremo più tardi se c'è tempo. Il titolo scelto dalla Gazzetta è Inter Poccio ci manca, perché naturalmente il riferimento è a questo giocatore argentino che sarebbe in cima alla lista delle preferenze dell'allenatore Mancini. E intanto poi spiega la Gazzetta, ci aggiorna su tutte queste mosse di calciomercato. Oggi Podolski può liberarsi dall'Arsenal, Icardi chiama Balotelli, l'odissea di Balotelli continua. Ma veniamo un po' alle pagine interne. Sul Corriere della Sera, Marzio Breda, il quirinalista del Corriere della Sera, racconta un po' come è la vita in questi giorni di Clio Napolitano, la moglie del presidente Giorgio Napolitano. È stato rieletto, sappiamo, per il secondo mandato dopo 7 anni del primo, il 20 aprile del 2013. Ora sappiamo che più o meno a metà gennaio arriveranno le dimissioni. E quindi Marzio Breda ci racconta: Clio Napolitano, ora nella mia casa vera, indietro non si torna. Poi vi segnalo un articolo di Francesco Battistini da Gerusalemme, che racconta di questo possibile imminente cambio radicale nell'organizzazione dell'esercito di Israele. Israele cade il tabù, esercito di professionisti, un documento interno della difesa svela il piano di riforma, adeguiamoci agli standard occidentali, allo studio, l'addio alla leva e alle forze armate del popolo, nate per la protezione di pionieri e kibbutz. Sapete che appunto il servizio militare in Israele è obbligatorio sia per i ragazzi che per le ragazze, e non esiste appunto un esercito vero e proprio di professionisti, ma le cose potrebbero cambiare. Torniamo al Sole 24 Ore, le pagine interne, la copertina di Imprese e Territori dedicata alla previsione sull'export. Sapete che il nostro paese è ancora, l'economia del nostro paese è sostanzialmente trainata dalle aziende che esportano, e che esportano molto. Micaela Cappellini ci spiega che nel 2015 dagli USA all'India le mete top, però ci sono anche tra queste mete appunto ambite, ma anche dove ci sono maggiori opportunità, Nigeria e Indonesia, mentre Russia, Libia e Venezuela finiscono nella lista nera. E poi un articolo di Rita Fatiguso che ci aggiorna sulla questione della contraffazione, che è una piaga per i prodotti made in Italy. Da Pechino Rita ci spiega: avviati ufficialmente i lavori della Corte di Pechino che vigilerà su marchi e brevetti, perché la Cina sta diventando anche, sta depositando tantissimi brevetti, e nell'anno passato è il paese che ne ha depositati di più, quindi forse a sua volta è più sensibilizzata su quanto possano possono costare le violazioni della proprietà intellettuale che così spesso vengono fatte all'interno del suo territorio su prodotti che non sono cinesi, e quindi forse una maggiore sensibilità su questa questione. Poi una buona notizia per quanto riguarda i fondi dell'Unione Europea: si dice spesso, sta succedendo purtroppo a Pompei, che non li utilizziamo, e quindi a volte semplicemente questi soldi che pure c'erano, che pure erano stati stanziati, non vengono usati. E però il bilancio sui fondi 2014, ci spiega Maria Adele Cerizza, pagina 15, in realtà sono stati usati abbastanza bene per quanto riguarda la cultura. Il programma agevola l'accesso al credito del settore dei media. E nell'Europa creativa la cultura parla italiano, il nostro paese è al vertice per numeri di progetti finanziati. Per quanto riguarda la sezione risparmio e famiglia, che è fatta dalla redazione del Sole 24 Ore del lunedì insieme a quella di Plus 24, che è il supplemento del sabato del Sole 24 Ore, Isabella Della Valle ci racconta, ci spiega, ci riassume come cambia il bilancio domestico, come imparare a farlo meglio. La famiglia gestita come un'azienda, è sempre più decisivo pianificare bene entrate e uscite, valutando come tagliare le spese superflue, magari anche aiutandosi con la tecnologia. Ci sono tantissime app che appunto aiutano a gestire il bilancio domestico. Sempre dal Sole 24 Ore, sempre nella sezione risparmio e famiglia, no, questa volta scusate, nella sezione norme e tributi, vi dicevamo l'inizio di questo approfondimento sulla legge di stabilità. Si comincia dalle imprese, dallo sconto IRAP che dal 2015, e tutte le spiegazioni alle pagine 24 e 25 del Sole 24 Ore. Un articolo molto curioso, sempre sul Foglio, in questa selezione che fa del meglio della stampa della settimana precedente. Questo articolo è di Elisa Conti, apparso su pagina 99 di sabato 20 dicembre, e riguarda i polli. Il titolo è L'impero del pollo, il colonizzatore povero. Il tutto prende spunto da questo libro di Andrew Lawler, che Elisa Conti ha scovato, che si chiama Why Did the Chicken Cross the World? Perché i polli hanno attraversato il mondo, dove si spiega che il pollo è l'animale più diffuso sulla Terra. Ci sono circa 20 miliardi di polli sulla Terra, 3 per ogni essere umano, se ipotizziamo insomma di essere quasi a 7 miliardi sul pianeta di esseri umani. Per fare un paragone, assommando tutti i gatti, cani, maiali, topi e mucche del mondo, il totale non eguaglia i polli. Eppure il pollame è praticamente invisibile nel mondo civilizzato. Negli Stati Uniti non ha neppure lo status di bestiame se viene allevato a scopi alimentari. E poi una curiosità finale sul fatto su come il pollo venga usato, la parola pollo anche un po' a sproposito, se si va a vedere scientificamente in realtà come sono fatti i polli. Conclude il pezzo Elisa Conti: di tutti i misteri sollevati dal pollame, comunque, gli scienziati non sono ancora riusciti a spiegarsene due. Perché associamo la prestanza maschile al gallo? Noi diciamo fare il galletto, in inglese cock, gallo, indica il pene, che è privo di fallo. E perché riteniamo stupide le galline? Il neuroscienziato italiano Giorgio Vallortigara ha dimostrato che i pulcini sanno fare appena nati le addizioni e le sottrazioni che noi risolviamo a 4 anni. Inoltre riconoscono le facce, capiscono la geometria e modulano i versi a seconda del destinatario. Sta a vedere che alla fine siamo noi a far ridere i polli. E poi passiamo alle pagine della Repubblica. Forse ieri ricorderete, chi ha seguito ieri la rassegna stampa, abbiamo parlato dell'incontro che ci sarebbe stato in Vaticano tra il Papa e le associazioni delle famiglie numerose, cioè le famiglie che hanno almeno 4 figli, ma ce ne sono anche alcune che ne hanno 16, è il massimo. Erano circa 150.000 famiglie venute dall'Italia ma anche dall'Europa, e quindi Repubblica fa un po' la cronaca della giornata e dice: il Papa accusa i politici, fate poco per la famiglia. Papa Bergoglio, ora più fatti, lo chiede anche la Costituzione italiana. Vi dicevo l'articolo di Ilvo Diamanti, lo trovate alle pagine 10 e 11, con tutti questi dati che vengono da questo indagine Demos, da cui emerge questa nazione spaesata, sfiancata dalla crisi, dal fisco e dalla corruzione. Un quadro peggiorato rispetto alla stessa indagine condotta nel 2013. E a proposito di invece magari fiducia nel futuro, nella tecnologia, in quello che di buono può portare, Riccardo Staglianò, che è uno degli esperti di tecnologie, di nuove tecnologie della Repubblica, Repubblica ci racconta alle pagine 26 e 27 la pillola del sapere. Inghiottire la conoscenza come un farmaco, solo fantascienza? Forse no. Tra corsi digitali regolati da algoritmi, lezioni senza professori e test in outsourcing, l'istruzione è già al centro di una nuova rivoluzione. Ecco, è un po' in effetti da racconto fantascientifico quello di poter assumere la conoscenza come una pillola, però ci sono, questa è naturalmente così un paradosso, un'esagerazione, però sicuramente i metodi di apprendimento e di insegnamento stanno molto cambiando. Sempre dalla Repubblica un curioso articolo sul fatto che ci sono tantissimi castelli in vendita in questo momento in Italia, AAA Castello Vendesi, quelle dimore da favola della nobiltà perduta. Ien Ermeletti ci racconta che un po' per le troppe tasse, un po' perché comunque sono i costi di manutenzione che incidono veramente, arrivano tranquillamente a 100.000 euro l'anno e quindi molti sono appunto in vendita. Per esempio in Toscana si cercano acquirenti per la casa dove visse la madre di Petrarca e ci sono alcune foto di queste dimore principesche o comunque almeno da favola. Poi c'è una bellissima intervista di Arianna Finos a Christian Bale, l'attore che sarà presto sugli schermi con il film Exodus che esce il 15 gennaio, l'ultimo film di Ridley Scott, e vi leggo queste le ultime due domande. Dallo psicopatico di American Psycho allo scheletrico uomo senza sonno, da Batman al macilento The Fighter, fino al tozzo truffatore di American Hustle. Il suo lavoro sul corpo è notevole. Ora che ho 40 anni mi rendo conto degli effetti di ciò che ho fatto al mio corpo. È che credo nella trascendenza che si raggiunge spingendo se stessi fisicamente molto in là. Appartiene alla cultura dei nativi americani. Per loro la sofferenza fisica aiuta al raggiungimento della luce spirituale. Ci credo anch'io. Non uso mai trucchetti smorfie. Devo sentire qualcosa di profondo. Più che fisica, la battaglia è mentale. Per Mosè, per esempio, ero reduce da American Hustle. Avevo la pancia e la testa pelata. Quando Ridley mi ha visto, ha urlato al suo agente: ci serve un nuovo attore. Gli ho detto: mi faccio crescere i capelli più che posso, ma niente barba posticcia, baffi che volano mentre ti muovi. Un artista italiano mi ha applicato ciocca per ciocca barba e capelli che sembravano veri. E poi l'ultima domanda: nel film accanto al faraone compare la sua figlia maggiore. Ha fatto un solo ciak, è pazza di Ridley e io sono pazzo di lei. Le donne sono sempre state importanti per me. Mio padre mi ha insegnato la parità delle donne in politica e nella vita, ma solo quando hai una figlia realizzi quanto siamo indietro. Emmeline, questo è il nome della primogenita di Christian Bale, avrebbe voluto giocare a football, ma nelle scuole inglesi non è facile. Ora voglio che capisca che non c'è niente che lei non possa fare e nessuno che possa fermarla. In primo piano. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, ben ritrovati per l'ultima parte della rassegna stampa. Eravamo nelle pagine interne dei quotidiani, ora vi segnalo dalla Stampa, pagina 9, un approfondimento di Mattia Feltri sugli aumenti che ci aspettano nel 2015 per le autostrade. Il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi ha assicurato non più dell'1,5%, cioè ci sarebbero dei ritocchi alle tariffe inferiori all'inflazione programmata. C'è poi un piccolo approfondimento sui saldi, perché sapete che in realtà i saldi partono il 3 gennaio, cioè sabato, ma come molti di noi probabilmente sanno perché hanno ricevuto dei messaggi o lo hanno saputo andando in negozio, in realtà in molti negozi sono già iniziati. Questa è una questione in cui l'Italia è un po' diversa da altri paesi, non è l'unico paese in Europa dove i saldi sono regolamentati con alcune regole molto ferre. Per esempio c'è invece l'Inghilterra, dove già il 26, il cosiddetto Boxing Day, cioè il giorno dopo Natale, i saldi sono già ovunque, sono liberalizzati. È una questione che si ripropone sempre, sia per i saldi invernali che per i saldi estivi, e anche quest'anno probabilmente sarà così. Sempre dalla Stampa, un approfondimento di Fabio Sindici su quello che sta succedendo in Iraq e in Siria, perché l'ISIS, secondo alcuni architetti, alcuni archeologi, alcuni esperti, starebbe saccheggiando parte del patrimonio archeologico e artistico di alcuni paesi per finanziarsi. Team di esperti e lavoro forzato, così l'ISIS ruba i tesori della storia. Questo è il titolo del reportage. Scavi selvaggi tra Siria e Iraq per finanziare la guerra del califfato. Il bottino archeologico ai collezionisti di Londra e Hong Kong. Vi dicevo dal Messaggero, l'approfondimento sul catasto, trovate tutto a pagina 9 del Messaggero con tutte le nuove, i nuovi estimi che verranno applicati nelle varie regioni, quindi un riassetto che coinvolge tutto. Ai primi di gennaio dovrebbe arrivare questo decreto sulla riforma degli estimi e il Messaggero ha fatto queste prime stime sugli effetti di aumento e riduzione del prelievo. Sul Messaggero sempre abbiamo visto in Israele come si stia discutendo di cambiare l'esercito e invece il Messaggero ci segnala che i tecnici del nostro Ministero dell'Interno stanno invece lavorando a un'altra riforma, quella della celere, una svolta, potrebbero esserci presto aperte le porte alle donne. I tecnici del Ministero hanno dato il via libera dopo una riunione con i sindacati degli agenti. In questo momento sono 5.000 gli uomini impegnati in 15 reparti speciali e potrebbero arrivare 500 celerine, così le chiama il Messaggero, addestrate a Nettuno. Dal Messaggero vi segnalo anche una bellissima intervista a Armin Zögler, l'ultima sua medaglia, il grande sportivo, ha vinto quasi tutto con lo slittino, l'ultima medaglia l'ha vinta ai giochi invernali olimpici di Sochi nel 2014, una medaglia di bronzo, e qui racconta: Italia credi nello slittino, dopo aver vinto tutto Zögler parla da tecnico, i giovani azzurri sono bravissimi, avranno un grande futuro, nel nostro paese è impossibile avvicinarsi a questo sport, chiudere l'impianto di Cesana è stato un grave errore, quindi insomma un grande impegno che nonostante le difficoltà, perché le ammette, dice appunto, in questo sport, in questo paese addirittura è impossibile avvicinarsi allo slittino, anche un grande ottimismo che fa ben sperare insomma per nuovi campioni in questa disciplina che abbiamo imparato a conoscere e anche un po' ad amare grazie a Zögler. Dalla Gazzetta dello Sport vi segnalo forse l'articolo più ampio che ho trovato su quello che è successo ieri a Santa Caterina Valfurva, perché il nostro sciatore Dominic Paris, a proposito appunto di azzurri, è arrivato sul podio di nuovo, continua a collezionare terzi posti, però caspita, meglio sicuramente che altre posizioni, era già arrivato sul podio in Val Gardena al terzo posto sempre il 19 di dicembre, ci ricorda la Gazzetta, e nel Super G sempre in Val Gardena il giorno dopo era arrivato addirittura secondo. Tra l'altro è arrivato a 21 centesimi, quelle inezie, quei misteri dei cronometri, e comunque insomma grandi speranze anche per questo nostro giovane sciatore. Vi dicevo che il giornale al lunedì ha questo inserto che si chiama Controcorrente e la copertina è dedicata all'Europa e a quelle che Giannino della Frattina definisce le leggi anti-italiane fatte apposta per ucciderci, decine di provvedimenti che penalizzano le nostre aziende. Uno, naturalmente, se ne è parlato tanto anche sul Sole 24 Ore, è quello sull'etichettatura obbligatoria di origine. L'Europa è l'unica grande zona, e tutti i paesi europei, quindi sono gli unici paesi al mondo delle grandi economie occidentali che non hanno questo obbligo di scrivere da dove proviene, dove viene fatto un prodotto, e quindi se ne discute a livello europeo, perché l'idea sarebbe quella di introdurla appunto a livello europeo. La misura è stata approvata già dal Parlamento europeo, che però sapete paradossalmente è un Parlamento che non legifera, o meglio legifera, consiglia, ma poi le leggi le fa la Commissione europea, e la Commissione europea è tutta sbilanciata sulla posizione della Germania e dei paesi nordici che non vogliono questa misura, e ne parla approfonditamente anche il giornale. E poi naturalmente tutte le truffe, infermieri e mozzarelle, la grande truffa che l'Europa non ferma e mette in ginocchio l'Italia, con tanti dati interessanti. E poi vi dicevo il reportage dalla Moldavia, in particolare Angelo Allegri è andato a Chisinau in Moldavia e ci racconta questo paese che viene definito il paese senza mamme, così vivono i figli delle nostre badanti. I figli, dicevamo, di quelle 200.000 donne che vengono in Italia per lavorare come badanti. E poi vi dicevo invece sul giornale, sempre nella sezione Controcorrente, l'intervista a Piero Stellino, che è stato direttore tra l'altro del Corriere della Sera tra l'84 e l'87, oggi ha 79 anni, collabora ancora con tantissimi giornali e sicuramente può permettersi, a un'età in cui non soltanto può fare dei bilanci personali ma anche può guardare al mondo nostro della professione giornalistica. Allora vi leggo per esempio queste risposte che riguardano in particolare l'avvocato Agnelli. Era amico dell'avvocato, eravamo in buonissimi rapporti. Per il tifo? No, perché era un uomo curioso. Quando tornavo dall'estero mi invitava regolarmente a cena e mi interrogava su quello che avevo visto. Parlava anche di sé? No, faceva solo domande, in continuazione. Era un gran signore. In che senso? Faceva i suoi interessi ma con classe, mentre questi suoi eredi penso che non abbiano capito la differenza nella gestione del personale fra una fabbrica di auto e il corriere. E quale sarebbe la differenza? In una fabbrica i dirigenti sono anche fungibili, ma il giornale è un prodotto industriale fatto da artigiani. Ecco, scusate, questa l'ho trovata una definizione bellissima. Prodotto industriale fatto da artigiani. Non puoi pensare di sostituire una firma con tre praticanti solo perché costano uguale. Ma da qualche parte il praticante dovrà pure iniziare. Ma con una firma cambi un giornale, e questo gli eredi dell'avvocato non lo capiscono, mentre lui lo capiva benissimo. Manca uno come l'avvocato? Manca perché era un uomo di mondo. E questi suoi eredi non lo sono, brave persone, per carità. E poi l'ultima domanda che vi leggo: da direttore aveva un modello, Ottone, siamo rimasti amici, è stato il più grande direttore del Corriere del dopoguerra. E perché? Aveva il disincanto e l'autoironia che devi avere per farlo. Il problema è che oggi, a furia di stare in mezzo, il giornale non prende più posizione. Quindi sono un po' critico verso il Corriere della Sera di questi giorni. Vi segnalo invece, come vi dicevo, dal Fatto Quotidiano, questa sezione i promossi e bocciati del 2014. Ce n'è uno per mese, chi vuole divertirsi con queste posizioni sempre molto forti, a volte molto ironiche, del Fatto Quotidiano lo trova dalle pagine 6 alla pagina 9, e poi invece a pagina 10 e 11 un esercizio lunghissimo di Marco Travaglio, che ha sicuramente utilizzato come sempre i suoi fornitissimi archivi per raccontarci tutte le domande alle quali Re Giorgio non ha mai risposto. E poi una pagina divertente, un po' sulle classifiche del 2014. Allora, mi ha divertito molto quella dei farmaci più venduti. Il più venduto è la tachipirina. Pensate, nel 2014 sono state vendute 3 milioni e rotte di confezioni, subito dopo l'Occitask, 1.700.000 confezioni. E poi anche altre classifiche: il sito più cliccato è Yahoo, i video più visto dell'anno, il tweet più popolare, insomma, così, divertente. Sempre a proposito di, dicevamo, insomma, mancano meno di tre giorni alla fine dell'anno, e allora su tutti i giornali trovate un po' bilanci e anche previsioni per il 2015. Scommetto che si scateneranno anche nei prossimi anni. Per esempio su Repubblica ho trovato molto interessante Concita De Gregorio, che mette un po' insieme tutti questi personaggi. È stato un po' l'anno delle donne, secondo me è un po' un wishful thinking, però è vero che ci sono state tante donne che hanno ricoperto posizioni importanti, sono venute alla ribalta per fatti particolarmente positivi. Concita De Gregorio scrive: Malala e le sue sorelle, riferimento naturalmente a Malala Yousafzai, che ha vinto il Nobel per la pace quest'anno, e le sue sorelle, il mondo è delle donne, ecco le protagoniste della rivoluzione 2014. Tra le altre donne di cui si parla e che sono fotografate c'è anche Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana di 37 anni, che sapete è la prima donna italiana a essere entrata nell'Agenzia Spaziale Europea, sta sorvolando il pianeta. Se la seguite su Twitter, ogni giorno ci racconta un po' che cosa vede dalla sua postazione. Sul Corriere della Sera, il meglio del peggio, questo è un articolo molto divertente di Luca Mastrantonio, che ci racconta un po', insomma, appunto il meglio del peggio, da Hollande in Kazakhstan, forse ve lo ricordate, il presidente francese col colbacco, e faceva effettivamente abbastanza ridere, la foto viene ripubblicata dal Corriere della Sera. Poi la famosa panda rossa del sindaco Marino, un anno di gaffe piccole, grandi e creative. E poi vi segnalo un ultimissimo articolo, visto che abbiamo parlato un pochino di Russia prima come stella, diciamo, cadente del 2014 e del 2015. La Stampa: il crollo del rublo svuota le piste da sci. I russi hanno problemi economici e anche, quindi evidentemente, a fare le vacanze dispendiose che erano abituati a fare fino a pochi mesi fa. Turisti russi in fuga dalle montagne italiane, e chi invece continua a venire magari spende un pochino di meno, e con le proteste le storie degli albergatori della Val d'Aosta, del Piemonte e delle Dolomiti, che appunto erano abituati a questi nababbi che spendevano e spandevano e che quest'anno si sono visti molto meno. E intanto invece qui si vede, si è rivista Irene, che è tornata qui con me. Sì, ho il cuore abbastanza spezzato da sta storia della caduta del rublo, della fine delle vacanze da sci. Organizzeremo una colletta per questi paperoni. Comunque grazie Giulia, sempre interessantissima la tua rassegna stampa. Ci ritroviamo domani? Domani mattina, assolutamente, stessa ora. Grazie a Giulia Crivelli che ci ha portato sui quotidiani di oggi. Noi in 24 mattino parleremo di burocrazia che uccide il merito, già di per sé una cosa ingiusta, ma lo è ancora di più se di mezzo ci vanno i cittadini, anzi i pazienti, perché a essere smantellata e dispersa stavolta è un'eccellenza della sanità. Ne parleremo dalle 8:30, prima prenderemo in esame il Jobs Act. Tutto questo però dopo il giornale radio. 24 mattino. Sono esattamente le 8:15, ancora un saluto da Irene Zerbini. Vi abbiamo anticipato nel corso della mattinata la tematica di oggi. Oggi vi racconteremo una storia, perché è una storia emblematica, perché è una storia tipica di un'Italia che non vorremmo più vedere, perché è una storia, speriamo, non si ripeta. Vi racconteremo questo. È un caso assurdo, l'unità operativa shock e trauma del San Camillo di Roma, che è stata diretta per 15 anni dal dottor Giuseppe Nardi, primario facente funzioni, e dunque tecnicamente un precario, proprio così. Questo dottore, questa eccellenza che ogni paese si terrebbe stretto, è ricercato in tutto il mondo per le procedure che lui e il suo team hanno messo a punto per salvare vite umane. Vi do qualche dato, se si può misurare in numeri l'attività di un medico di questo tipo, che ha sempre a che fare con pazienti in punto di morte. La riduzione della mortalità della rianimazione che lui ha diretto dal 1999, quando lui è arrivato, la mortalità era al 42%. È stata ridotta in questi anni a un terzo, al 16%. Ma deve uscire un concorso per stabilizzare il nostro precario. Questo concorso che non arriva per 15 anni, sempre per ragioni burocratiche. E dunque, quando arriva dalla Regione Lazio una direttiva di spending review molto chiara ai tagli, che dicono i facenti funzioni vanno soppressi, l'incarico va affidato ad interim a qualcun altro, anche lui e la sua squadra, lui l'eccellente, l'unico italiano che viene chiamato all'estero in quelle equipe specialistiche, molto delicate, che scrivono, diciamo così, le linee guida, per capirci, per non entrare troppo nel tecnico, per salvare la vita ai pazienti gravi, equipe costituite in genere da 10 medici di tutto il mondo, lui è l'unico italiano, in Italia è precario. Cosa succede? Deve tornare a fare l'attività che svolgeva appena dopo la laurea, cioè in corsia, coi turni di guardia, disperdendo di fatto, al di là del posto di lavoro e della soddisfazione, non è questo il centro della nostra puntata, disperdendo di fatto quelle risorse così fondamentali che erano state arricchite, completate in tutti questi anni. Ve lo presenteremo perché per la prima volta parlerà ai microfoni e parlerà con la stampa di questa vicenda, Giuseppe Nardi. Prima però vogliamo soffermarci sul Jobs Act, perché il lavoro, che ha così intimamente a che fare non solo con la vita e con le risorse economiche di persone e famiglie, ma anche con l'identità, con la realizzazione, con il benessere psichico e mentale, ha detto il nostro Presidente del Consiglio, sta subendo in Italia una rivoluzione copernicana. È proprio così? Lo chiediamo al nostro ospite. Buongiorno Walter Passerini. Buongiorno a te, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Walter Passerini, giornalista della stampa e non solo, ha scritto molti libri sul lavoro, esperto dell'impianto giuridico, di tutto ciò che ha caratterizzato l'impiego e l'occupabilità in Italia. A te vogliamo chiedere, perché poi ci torneremo con una puntata naturalmente monotematica, e di fare chiarezza su alcuni dei punti e del dibattito sul Jobs Act. In questi giorni è stato scritto tutto e il contenuto contrario di tutto, e ha preso decisamente i riflettori la questione dei licenziamenti. Ma facciamo un passo indietro noi. L'impianto del Jobs Act da cos'è costituito? Da questi decreti attuativi che abbiamo visto il 24 dicembre annunciati in pompa magna e dibattuti, o c'è anche molto altro sul quale vale la pena di soffermarsi come opinione pubblica? Ma sì, certo, c'è molto e molto di più, e questo è il punto, perché noi vediamo un tifo calcistico su aspetti certamente molto rilevanti, ma che sono soltanto una parte del disegno di riforma. Del resto era già successo questa primavera, quando dal disegno di legge delega del Job Act, ormai risale a qualche mese fa, 7-8 mesi fa, erano stati sfilati due provvedimenti, anche in quel caso, il contratto a termine e l'apprendistato, no? E si erano fatti i decreti su quei due provvedimenti. Poi è ripresa la marcia del disegno di legge complessivo. Ma per tornare a noi, il contratto a tutele crescenti e il rinnovo dell'ammortizzatore sociale sono solo due aspetti, anche in questo caso, di un disegno molto molto più grande. Tra l'altro, per inciso, non è che il contratto a tutele crescenti e il nuovo ammortizzatore vanno in vigore immediatamente, perché quello che ci scordiamo di dire all'opinione pubblica è che i tempi sono ancora lunghi, perché questi due decreti attuativi debbono passare dalla Commissione Lavoro della Camera e dalla Commissione Lavoro del Senato, che teoricamente hanno 30 giorni per esaminarli. Il loro parente certo non è vincolante, ma è politicamente molto rilevante, come il dibattito di questo ultimo weekend ci ha insegnato. E poi bisogna passare alla registrazione della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Se tutto va bene, vedranno la luce, operativamente parlando, dopo la metà di febbraio. Questa è l'Italia. C'è invece la sensazione, il messaggio che passa, che dal primo gennaio tutto cambi. No, esatto, e invece non è così, e non è possibile che sia così, perché la produzione di leggi nel nostro paese è sempre un po' lunga e farraginosa. Ma torniamo un po', che cos'è che manca? Allora, intanto manca tutta la ristrutturazione degli ammortizzatori, perché è brutta questa parola, il nuovo ammortizzatore, cioè la nuova indennità, non sarà soltanto un'indennità, a parte che dovrebbe entrare in vigore a partire da maggio-giugno, se tutto va bene. E che altro sarà? Allora, sarà il fatto che il soggetto beneficiario della indennità di disoccupazione, cioè il disoccupato, la persona che ha perso il lavoro, sia esso collaboratore, sia esso lavoratore dipendente a tutti gli effetti, dovrà attuare un atteggiamento e un comportamento attivo nei confronti di questo ammortizzatore. Cioè, nell'arco di durata dell'ammortizzatore, che passerà da 12 a 24 mesi, dovrà dimostrare di essere capace di avere provato perlomeno a cercare un altro lavoro. Poi non su potrà... canali istituzionali. Esatto, sulla rete dei servizi all'impiego, altra riforma ancora tutta da fare, ed è compresa in una delle cinque deleghe di cui si compone il Job Act. No, questo è molto importante, cioè non basterà chiamare lo zio o i parenti, di solito questo è una delle anomalie italiane, sì, cioè il lavoro si ritrova nell'informalità con le conoscenze. Bisognerà in qualche modo certificare la propria predisposizione e disponibilità ad accettare anche lavori che vengono offerti da canali istituzionali. E qui battiamo sull'Agenzia Nazionale dell'Occupazione, che è un anello importantissimo. Sì, ma questa persona dovrà dimostrare di offrire a beneficio della comunità locale, questa è la novità, del suo comune, del suo paese, della sua provincia, il fatto di fare anche dei lavori socialmente utili. E diciamo che poi tutto il disegno della riforma dovrà essere coordinato da questa Agenzia Nazionale per l'occupazione, che è l'altro elemento assolutamente importante, ma ce n'è un altro ancora, c'è il riordino dei contratti, cioè non si può parlare di contratto a tutele crescenti quando ci sono ancora 43 forme per assumere una persona, quindi bisognerà disboscare tutta la foresta delle varie formule che hanno permesso la crescita della precarietà. Poi ci sarà il compenso orario minimo che ritorna, no? Perché? Perché c'è molta gente oggi che prende 2 euro all'ora, quindi c'è un problema che i contratti nazionali non tutelano tutte le persone. Poi ci saranno due cose a cui tengo moltissimo. Una è quella della solidarietà, cioè sarà possibile, però è oggetto di una delega che è di là da venire, una persona potrà regalare una parte delle proprie ferie per un collega di lavoro che ha dei figli ammalati o ha dei genitori ammalati. Questa la trovo una norma di civiltà che rientrerà in un'altra delega. E poi c'è quella della maternità. Varrà estesa a tutte le donne l'indennità e la cura, insomma, della maternità, indipendentemente dal contratto di lavoro posseduto. Anche quindi in questo caso anche alle precarie, anche a coloro che non sono stabilizzate, tanto per intenderci. Esattamente. E questi sono elementi fondamentali che ci premeva sottolineare e portare all'attenzione del dibattito pubblico, perché in questi giorni ci si è concentrati sull'aspetto licenziamenti sostanzialmente e poi sulla possibile impugnabilità del Jobs Act, in quanto i decreti appena approvati potrebbero sollevare dubbi di incostituzionalità per quel che riguarda il principio di uguaglianza tra pubblico e privato. Anche guarda, lì è una Irene, da sciogliere. Ecco, più che tra pubblico e privato, perché anche qui è una tempesta in un bicchiere d'acqua, credo che oggi sui giornali leggeremo appunto i costituzionalisti che ci dicono non è possibile in questo momento assimilare il rapporto di lavoro pubblico a quello privato, sono due statuti completamente diversi, ci vuole tempo, non si possono fare i colpi di mano, le piccole furbizie intorno a questa divisione del paese tra pubblico e privato. Ma poi c'è anche un altro dualismo che rischia di attuarsi, ed è quello che in una stessa azienda ci potranno essere dei lavoratori che hanno e mantengono la tutela dello statuto dei lavoratori, cioè la vecchia normativa, perché diciamolo chiaro, la nuova normativa si applicherà esclusivamente alle nuove assunzioni, non solo i giovani, tutti, a qualunque età. Sì, hai ragione, età, non è un passaggio scontato. Ecco, questo fatto, ci sarà una sorta di resistenza da parte di una persona a cambiare azienda, perché se io lascio la mia azienda di oggi, che il mio posto è tutelato ancora dalle vecchie norme, ebbene vado in un'azienda come nuovo assunto, avrò un livello di tutele, diciamo, io non dico inferiore, comunque dico diverso, assolutamente diverso. Quindi avere un'azienda che è a macchie di leopardo, che ha delle persone tutelate da una certa legge e altre persone che sono tutelate da una nuova legge che è comunque molto diversa, sarà un problema, io credo, e spero di no, ma credo, di aumento del contenzioso tra lavoratori, aziende e pubblica amministrazione. È un passaggio che solo alla prova dei fatti saremo in grado di verificare, però intanto Walter Passerini, grazie per aver chiarito con dei contenuti questo Jobs Act così rilevante sulla vita di tutti. Grazie per aver dato anche delle date. Ma ti anticipo, prima che tu ci liquidi così amabilmente come stai facendo, avremo una puntata monotematica naturalmente sul lavoro del 2015, cosa cambia, cosa aspettarsi, cosa voi vorreste vedere, quindi scriveteci su questo tema a 24mattino@radio24.it, così che possiamo raccogliere anche le vostre sollecitazioni, e tu Walter sarai chiamato in causa un'altra volta. Grazie a Walter Passerini, sono le 8:27. Vorrei presentarvi il nostro prossimo ospite. Buongiorno a Mario Tamarindo, buongiorno. Buongiorno. Lei ha vissuto un'esperienza molto particolare qualche mese fa. Innanzitutto ci rallegriamo moltissimo dell'esito finale di questa vicenda. Ce la vuole raccontare? Sì, io sono il fratello di Andrea. Andrea è un ragazzo di 23 anni che quest'estate, in agosto, è stato vittima di un gravissimo incidente stradale con il suo motorino. Andrea è stato preso in consegna dal CR1 dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, unità operativa diretta dal dottor Nardi. Molto brevemente, la situazione era difficilissima, molto complicata. Nelle prime ore si parlava di parametri vitali. Andrea ha avuto una bella storia, Andrea ce l'ha fatta anche e soprattutto grazie al lavoro del dottor Nardi e della sua squadra. Un lavoro fatto di competenza, un lavoro che ha illuminato le nostre strade di genitori, di fratelli e comunque di persone vicine ad Andrea. Abbiamo avuto modo di toccare veramente con mano la competenza non solo dello staff medico, ma di tutte le persone, di tutte le figure che fanno parte di questo reparto. Quindi salutiamo naturalmente Andrea e i suoi genitori che stanno seguendo questa trasmissione, e che è uno dei tanti, delle migliaia di persone che si sono viste salvare la vita letteralmente da una specialista fantastica, da un insieme di competenze raramente ritrovabili in un'equipe e che ora noi in Italia stiamo smantellando. E vi spiegheremo pochissimo perché si è arrivati a questa miopia della burocrazia, a questo taglio assolutamente ingiustificabile secondo il buon senso di noi cittadini comuni. Per i vostri sms, per partecipare alla trasmissione 349 238 6666, per le telefonate ricordo anche il numero telefonico 800 24 00 24, e tra pochissimo andremo a conoscere anche il protagonista di questa vicenda, il dottor Giuseppe Nardi. 24 mattino. Ancora buongiorno da Irene Zerbini e oggi vi parleremo di un primario eccellente, ma non per la burocrazia. Questo è il titolo dell'articolo del Corriere della Sera su questa vicenda. O ancora, meno morti in reparto, il medico troppo bravo non può fare il primario. Questo è il titolo invece del Fatto Quotidiano. Ma quello che ci ha colpito di tutta questa classica storia italiana di antimeritocrazia è la mobilitazione dei cittadini. Vi abbiamo proposto la voce di Mario Tamarindo, che ha visto rinascere suo fratello di 23 anni nelle mani del CR1 dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, nelle mani di Giuseppe Nardi e della sua equipe, un fratello che purtroppo i genitori e tutti quanti davano per spacciato. E dopo questa situazione, dopo questo regalo che ha ricevuto dalla vita, ha deciso questo paziente, ma tanti altri, di contribuire in qualche modo alla vicenda, e hanno scritto a giornali, hanno scritto a redazioni radiofoniche, al Parlamento addirittura, c'è un'interrogazione parlamentare per chiedere che il patrimonio di questa equipe non vada perduto come uno dei tanti lasciati in malora nel nostro paese. E cosa è successo esattamente? L'unità operativa shock e trauma dell'ospedale San Camillo di Roma è un centro di grandissima eccellenza, riconosciuto in tutta Italia, riconosciuto in Europa, nel mondo, uno dei cardini fondamentali della rete emergenza della Regione Lazio. Però per questioni burocratiche, semplicemente cavilli formali, chi la dirige, chi l'ha creata, non è mai stato stabilizzato, è sempre stato un precario per 15 anni. Buongiorno, dottor Giuseppe Nardi. Buongiorno a lei e a tutti quanti. E noi innanzitutto la ringraziamo per aver partecipato a questa trasmissione, ma le chiediamo, com'è possibile, perché lei per 15 anni non è stato regolarizzato? Ma guardi, lei giustamente ha parlato di una storia tipicamente italiana. Questa non è solo la mia storia, è la storia che purtroppo vivono tantissime persone che credo che in questa storia si riconosceranno. È una storia che ha una serie di protagonisti. I primi protagonisti sono i miei colleghi, una squadra di tecnici fantastici che in questi anni ha ottenuto una serie di risultati sia in campo clinico, lei ha ricordato la riduzione di mortalità e un miglioramento di tutti gli outcome, ma anche in campo scientifico siamo diventati, dall'essere un ospedale diciamo abbastanza disastrato, ad essere riconosciuti come un polo di eccellenza anche per la ricerca. Gli altri protagonisti sono i cittadini, che sono quelli per cui questo lavoro è stato fatto e quelli per i quali noi lavoriamo e che si vedono in questo momento sottratto un qualche cosa che hanno pagato con le loro tasse e che funziona. Come io non avevo mai visto una mobilitazione dei cittadini tale come quella che si è creata, probabilmente nemmeno in relazione uno con l'altro, per veder salvato il suo reparto, la sua unità. Perché lei, mentre era impegnato e a salvar vite e a scrivere linee guida per la ricerca, adesso lo voglio citare, il suo curriculum sono veramente troppe pagine per essere, come dire, riproposto in questa trasmissione in maniera esaustiva, ma basti pensare che quello che Nardi ha creato è stato recepito perfino dall'esercito americano, da quei dottori che devono curare ricordare i soldati colpiti in guerra e che lottano veramente tra la vita e la morte, solo per dare un'idea del tipo di eco internazionale che il suo lavoro ha avuto. Ora, mentre lei era impegnato in tutto questo, non si è curato però di diventare un primario assunto. Lei era un primario facente funzioni, ma cosa mancava? Qual era il passaggio che mancava perché lei venisse riconosciuto anche ufficialmente come primario? Ma guardi, quando noi usiamo la parola burocrazia, in realtà diciamo qualche cosa che va oltre. Parliamo di burocrazia, ma dovremmo intendere tutto quello che in qualche modo è il malcostume italiano detto la burocrazia. Io sono stato chiamato a San Camillo nel 99, sì. Si aspettava il giubileo, i risultati dell'ospedale erano pessimi e quindi, come altre persone, sono stato chiamato per cercare in qualche modo di riorganizzare una sorta di svolta. I risultati sono visti rapidamente. Quando sono stato chiamato, io già dirigevo un'unità operativa in Friuli. Sono arrivato, mi è stata data un'unità operativa dicendomi che successivamente sarebbe stata, diciamo, trasformata in un'unità complessa e sarebbe stato fatto un concorso il più presto possibile. Per regolarizzarla, diciamo. Per regolarizzarla. Cioè le dicono, lei accetti di svolgere questa funzione e certo. Poi la mettiamo a posto. Adesso allora, sto semplificando, dottore. Sì, sì, guardi, poi si sono succeduti 9 o forse 10 direttori generali. Ognuno mi ha fatto le sue promesse, mi sono sentito dire alternativamente: guardi, non è questo il momento, perché se bandiamo il concorso adesso ci saranno tanti raccomandati. Addirittura un direttore generale mi ha fatto direttamente un contratto da primario che poi non è stato in qualche modo seguito da altri direttori generali. A un certo punto effettivamente l'unità operativa è stata trasformata in unità complessa, eravamo nel 2007, ma contemporaneamente avrebbero dovuto bandire il concorso, non l'hanno bandito e successivamente la Regione Lazio ha bloccato i concorsi. E per tutta questa serie di questioni io sono rimasto un primario precario. Devo anche dire però, per essere onesto, che nel frattempo nello stesso ospedale sono stati banditi concorsi per altre persone che ovviamente avevano dei padrini politici o anche padrini di altro tipo, per cui c'è sempre questa discrepanza tra quello che si ottiene lavorando e ottenendo dei risultati e quello che si ottiene facendosi, diciamo, appoggiare. Cioè a noi interessa il merito in questo caso, la meritocrazia è innegabile nel caso del dottor Nardi, meritocrazia disattesa, lui nel frattempo ha lavorato come facente funzioni per 15 anni, se non che e quando poi la spending review, cioè i piani di rientro di una regione che aveva i bilanci della sanità disastrata, l'hanno richiesto, perché anche questo va detto naturalmente, non è un capriccio così per cui un giorno, e le logiche burocratiche hanno fatto sì che i primari facenti funzione, almeno alcuni di loro, venissero cancellati con una croce. Nelle forbici di questa spending review è finita l'unità operativa di Giuseppe Nardi. A questo punto io ringrazio e saluto anche un medico in collegamento con noi addirittura dalla California, Fernando Schiraldi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Perché lei ha accettato di essere in piedi praticamente alle 2:30 di notte per parlare, lei che è esperto di critical care naturalmente ed ex presidente della Società Italiana Medici d'Emergenza, del caso di Giuseppe Nardi? Beh, per due motivi. Uno, sono un testimone nel tempo, diciamo così, continuo. Sono 25 anni che ho collaborato con Nardi per motivi scientifici e siamo anche sottoposti insieme a un esame internazionale in cui, devo dire, dei 20 italiani presenti, lui è stato il primo. E quindi un'ulteriore conferma, ed era il lontanissimo 1991. Quindi c'è un rapporto di stima e veramente così consolidato nel tempo da collega a collega, perché sono anche un rianimatore, anche se ho fatto per molti anni il primario di medicina d'urgenza, quindi le posso testimoniare, ma questo, diciamo, è una delle mille testimonianze che lei avrà trovato. Altro motivo è etico. È etico e bypassa un poco i ragionamenti così, le notizie pratiche di cui si sono occupati, ha detto bene lei, perfino con interrogazioni parlamentari, perché veda, io ho lavorato oltre 40 anni nel servizio pubblico nazionale, ritengo che ci sia in questo momento più che mai la necessità, visto che ci sono problemi economici, di determinare risultati, ma anche di dare dei messaggi agli operatori. Allora, il gruppo di Nardi e altri gruppi che ci sono e eccellenti in Italia non penso debbano più, non, penso che non sia più tempo, ecco, di accettare senza discutere una discrepanza tra ciò che si produce al servizio a vantaggio del cittadino e ciò che viene valutato dal management, dalla burocrazia, dalla politica. Diventa assolutamente non etico non esporsi di fronte a una palese ingiustizia che io credo in qualunque altra parte del mondo, sono stato anche in Australia, altrove a lavorare, ho visto una naturalezza nel premiare il merito. Ecco, la stessa naturalezza che lascia passare spesso sotto silenzio delle situazioni come questa. Qui per fortuna c'è qualcuno, lei tra questi, che ha deciso di mettere luce su questo argomento e io ho ritenuto che fosse giusto dare un contributo. Noi ci segnalano gli ascoltatori, non solo la questione Einaudi, altre eccellenze italiane sono in queste condizioni, per cui attenzione, noi abbiamo puntato i riflettori sulla questione del dottor Nardi perché particolarmente significativa, particolarmente emblematica di una situazione molto diffusa e anzi mettendo mano a quello che succede nelle corsie, sulle nomine dei primari, nella sanità italiana c'è veramente da mettersi le mani nei capelli, perché in questi giorni in cui abbiamo lavorato a questa storia abbiamo raccolto testimonianze anche di altri medici e dottori magari impegnati in tutt'altra specialità ma con situazioni molto analoghe e molto tristi, perché la sanità italiana in sé continua a produrre grandissime eccellenze ed è stimata nel mondo. Dottor Schiraldi, lei ha detto, ha notato nel mondo una naturalezza nel premiare il merito, come si potrebbe intervenire a livello strutturale proprio, no? Per far sì che per reclutare un primario valgano i titoli, valgano i meriti e non i concorsi di sapore ottocentesco che forse non sono più all'altezza, come dire, di reclutare il meglio. Qual è il modello a cui lei si ispirerebbe? Guardi, un discorso articolato sarebbe lungo, ma sì, due idee semplici si potrebbero utilizzare. Una è quella che ha cominciato a utilizzare il mondo universitario, tra l'altro per inciso voglio ricordare che anche il professor Antonelli, presidente della Società Universitaria di Terapia Intensiva, ha sostenuto la validità di Nardi e del suo progetto e quindi è rimasto anche lui molto perplesso rispetto a questa decisione, ma questo è un inciso che ho fatto. Allora, si potrebbe prendere dal mondo universitario una loro recente diciamo acquisizione, che è quella di nominare un membro internazionale nelle commissioni per l'ordinariato dei professori universitari. Questo potrebbe essere un buon criterio perché vivendo all'esterno della realtà italiana è possibile che, anzi è molto probabile, che il giudizio di un membro esterno di una commissione a livello internazionale possa non essere assolutamente influenzato da altro se non dal curriculum delle persone. E quindi comunque per lei il passaggio dovrebbe essere commissione, selezione dei primari tramite una commissione, non concorso. Ma no, commissione, concorso, valutazione del curriculum non ha importanza, ma mi sembrerebbe che, visto che empiricamente il sistema italiano non sempre per non essere troppo cattivi, premia i migliori, forse l'arricchimento delle commissioni di concorso o di selezione con un membro internazionale proveniente da un paese a altro potrebbe essere più una garanzia. Questo è uno. E l'altro, se posso permettermi, è che un uguale criterio, mi sembra che sia stato anche accennato dal governo in carica, ma non credo che sia ancora operativo, sarebbe importante che avvenisse per la scelta dei cosiddetti manager, cioè direttori generali e direttori sanitari, che di fatto sono quelli che operativamente determinano le scelte e poi a cascata quindi gli effetti sulla sanità pubblica, anche loro dovrebbero essere assolutamente sottratti a valutazioni di ordine politico e quindi essere sottoposti partecipare ad un albo curricolare che sia il più severo, il più corretto, il più internazionalmente valido possibile. Detto da Fernando Schiraldi, l'ex presidente della Società Italiana Medici d'Emergenza, considerato il più grande dei medici animatori di critical care. Quindi grazie dalla California, grazie, la lasciamo tornare naturalmente alle sue occupazioni. Noi continueremo a raccontare questa storia di un'eccellenza riconosciuta nel mondo e invece in Italia retrocessa alle mansioni che aveva appena dopo la laurea. È andata così a Giuseppe Nardi e a tanti altri che si riconosceranno in questa vicenda. Se volete partecipare per i vostri sms 349 238 6666. 24 mattino. Sarebbe interessante sentire il commento, l'opinione degli studenti di medicina, di coloro che si affacciano adesso ai libri, alle fatiche universitarie per diventare medico in Italia, e per capire che tipo di ambizioni, speranze, idee sul mondo che li accoglierà hanno in questo momento. Ora con noi c'è l'onorevole Marisa Nicchi. Buongiorno e benvenuta, deputato di SEL. Buongiorno. Marisa Nicchi, lei conosce personalmente Giuseppe Nardi? No, non lo conosco personalmente, ne ho avuto modo di, attraverso quel moto di opinione collettiva che si è mosso in difesa del suo lavoro, ho avuto modo di apprezzare l'importanza del lavoro che lui ha svolto, e credo che dobbiamo fare di tutto perché tutto questo, perché non accada, che venga disperso. Mi è sembrata chiara anche la testimonianza del valore di questo lavoro, e quindi tutti noi cittadini, io sono una parlamentare, ho pagato il ministro, e credo che tutte le istituzioni devono mobilitarsi per non disperdere questo lavoro importante. E lei ha proposto appunto all'attenzione di Montecitorio, cioè ha fatto una interrogazione parlamentare per capire perché ciò sia stato possibile. Rimanga con noi un attimo. Dottor Nardi, lei è stato informato di questa interrogazione parlamentare che la riguarda? Sì, io ringrazio l'onorevole Nicchi, sono stato informato dell'interrogazione, non ci conosciamo, comunque ho molto apprezzato questo interessamento. Io purtroppo devo entrare nel merito, perché l'auspicio è bellissimo che si possa continuare con questa esperienza, ma in realtà gli eventi si sono già succeduti, quindi la nostra esperienza si è già interrotta. L'unità operativa che io ho diretto per 15 anni è stata assegnata prima a un nuovo responsabile, successivamente sostituito da un secondo responsabile. Io e alcuni miei colleghi, non potendo più in qualche modo dare il nostro contributo nell'ospedale dove abbiamo lavorato per 15 anni, abbiamo già fatto una domanda di trasferimento, cercando di andare a dare il contributo in un altro ospedale dove magari hanno bisogno di noi, della nostra esperienza. La cosa più drammatica che è successa è che con noi viene a finire questo filone di ricerca che abbiamo portato avanti in questi 15 anni, perché la ricerca è invece un rapporto in qualche modo personale, vincolato tra l'investigatore principale che fa i progetti di ricerca, trova poi i grandi enti internazionali di finanziamento e quello che è appunto l'ente. Quindi col lasciare il San Camillo finisce il progetto. Finisce di anche questo filone, che tra l'altro, parlando di spending review, avrebbe portato anche entrate all'ospedale. Ha portato in questi anni centinaia di migliaia di euro che noi abbiamo utilizzato per pagare dei medici ricercatori, che poi permettevano, in un momento di grande carenza di organico, di mandare avanti l'assistenza. Lei prima aveva fatto riferimento all'esercito americano. La settimana scorsa io sono stato a Innsbruck a un congresso a cui hanno partecipato, diciamo, i più grossi esperti di trauma e di emorragia da trauma, e c'era la grande ricercatrice, il capo della ricerca dell'esercito americano su questo settore, la professoressa Martin Weyun, che dopo aver sentito la presentazione dei risultati dei trauma center italiani, quindi non del San Camillo ma della ricerca che stiamo facendo tutti insieme. Si è proprio alzata facendo i complimenti pubblici alla ricerca italiana, dicendo addirittura letteralmente che siamo più avanti di quanto non siano loro. Allora, quello che sta succedendo in questo paese è che giustamente il Presidente del Consiglio parla di meritocrazia e di ricerca, dicendo che sono i due cardini su cui ci si dovrebbe basare. Nella meritocrazia avete già visto come sono finite le cose. La ricerca, purtroppo, che è così difficile da fare, in qualche modo il nostro paese non solo non la fa per una questione di finanziamenti, ma anche laddove viene fatta, i finanziamenti vengono poi trovati all'estero, noi non riceviamo, siamo uno poi viene mortificata da questa miopia burocratica, quantomeno, se non vogliamo entrare nel merito. Viene uccisa con una grossa perdita anche economica, perché con la ricerca, la fine di questo filone di ricerca a San Camillo, noi nell'ultimo anno abbiamo pubblicato sulle più importanti riviste mondiali. Senta, dottore, devo chiederle però, so cosa avete fatto fino ad ora, lei ieri cosa ha fatto? Io sto facendo, nel senso che ieri sono smontato di notte perché faccio i turni di guardia e oggi ho un collega che mi sta sostituendo in questa mezz'oretta in cui sto con voi e poi ricomincio a fare i turni di guardia, che facevo quando avevo 37 anni. Sono tornato come gamberi indietro di 25 anni, che è importante perché l'assistenza è importante, però io in questi anni mi sono occupato di organizzazione, ho organizzato un'unità operativa che ha ottenuto dei risultati che voi definite eccellenti, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, non noi, i titoli che abbiamo trovato a livello internazionale. Abbiamo anche contattato Martini Young, la dottoressa dell'esercito statunitense che lei ha citato, e qui stiamo parlando di gestione dell'emergenza traumatologica. È un po' difficile da far capire, andare dietro queste etichette tecniche, ma noi ci proviamo. Avete presente i codici rossi? Avete presente i pazienti che entrano e lottano tra la vita e la morte? Mi aiuti a definire di cosa si tratta, dottor Nardi? Guardi, sono purtroppo noi stessi e i nostri figli quando cadono dal motorino, quando vanno a sbattere con la macchina, quando hanno degli incidenti e giungono in condizioni in cui rimangono tra la vita e la morte, e solo una squadra allenata, perché il centro di tutto quanto è la squadra, sono i professionisti, una squadra allenata può davvero fare la differenza. La fermo un attimo per andare in un'altra squadra allenata, è quella dal colui che è definito il migliore chirurgo d'urgenza d'Italia, si chiama dottor Osvaldo Chiara, lavora al Niguarda. Dottor Chiara, buongiorno, scusi per averla sottratta alla sua corsia. Buongiorno a tutti, un saluto particolare ai colleghi che sono in linea. Per noi è naturalmente un grande è importante averla qua, ma sappiamo che deve scappare appena finito il briefing con i suoi colleghi e deve tornare in corsia. Cosa insegna questa vicenda di Nardi, al di là del personalismo, al di là del dottore, della persona in sé che merita naturalmente tutta la nostra stima e sostegno? Cosa si può fare perché non si ripeta mai più? Ma sicuramente intanto ho molto piacere a dare un contributo all'amico Nardi, che conosco da 20 anni, con cui abbiamo fatto tante battaglie scientifiche, assistenziali e organizzative insieme. Questa storia è francamente l'esempio dell'incapacità da parte del nostro sistema di riconoscere l'efficienza, l'efficacia in ambito sanitario. Esistono a livello internazionale dei meccanismi di cooptazione virtuosa per la scelta dei responsabili nell'ambito delle varie strutture, che a parer mio dovrebbero essere applicati anche nel nostro paese. Per esempio, ci dia un esempio pratico in pochi secondi, dottore. Allora, esistono dei meccanismi obiettivi di valutazione della capacità scientifica di un determinato sanitario, un determinato medico, come ad esempio l'impact factor, che misura impact il factor. Livello, sì, cioè il livello di indicizzazione, se non sbaglio. Sì, il livello di citazione nell'ambito della letteratura internazionale. Questo è un dato obiettivo che dice qual è il valore, il peso scientifico. Facciamo capire a tutti, scusi, perché non tutti operiamo nel vostro ambito. Quando c'è una pubblicazione a firma di Nardi piuttosto che di Chiaro, di altri dottori, quante volte viene ripresa nella comunità scientifica internazionale citandola? Esatto, e su questa base viene costruito un coefficiente che è appunto l'impact factor, che denuncia quello che è la capacità di penetrazione scientifica di un determinato personaggio, di un determinato ricercatore. Insomma, e questo, dottore, è sicuramente un dato obiettivo di cui si può tenere. Cioè esistono dati oggettivi di cui ci si può servire, questo ci sta dicendo, per migliorare quantomeno. Poi il sistema perfetto non esiste, è chiaro. Assolutamente. Poi un'altra considerazione. L'efficacia in ambito sanitario viene misurata non solo sull'utilizzo delle risorse, ma anche sull'outcome, cioè sugli esiti della prestazione sanitaria in termini di sopravvivenza nell'ambito professionale in cui si applica il sanitario in questione. In Italia manca questo tipo di consapevolezza di fatto, cioè da parte di chi sceglie un determinato primario, un determinato responsabile di una struttura, non c'è l'assunzione di responsabilità di fronte alla struttura, di fronte e come si potrebbe rendere responsabile di fronte alla collettività per la scelta che si fa anche coloro che operano queste scelte? Vede, io mi trovo a confrontare il modello italiano con quello che è il modello anglosassone, sia dei paesi del nord Europa sia dei paesi dell'oltreoceano. In quei casi il responsabile di una struttura viene cooptato sulla base della presentazione di curriculum e di lettere di referenza da parte di chi ha già avuto a che fare con questo personale. E questa è un'assunzione di responsabilità. Grazie, dottore, dobbiamo purtroppo interromperla. Grazie a Giuseppe Nardi, a Franco Schiraldi, a Marisa Nicchi, deputata di SEL, a Mario Tamarindo, a tutti voi che ci avete seguito. 24 Mattino ritorna domani. Un saluto da Irene Zerbini.